Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una giornata in cui le borse sono più tranquille di ieri. Ieri hanno fatto rialzi incredibili dopo l'annuncio della Pfizer sul vaccino. Oggi però confermano i rialzi di ieri e aggiungono anche qualcosa: più 0,50 Milano a 20.800 punti, più 1,70 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 1,5 Londra, Dow Jones più 0,50%. E si confermano i titoli industriali, si conferma quella che gli operatori chiamano una rotazione dei settori: Leonardo più 7,40, Unicredit più 5, Intesa più 5, Eni più 4, Fiat Chrysler più 2,70, Atlantia più 2,5, Inuit più 2,30 come Amplifon. Negativa invece ST Microelectronics meno 5,40, Prysmian meno 4, Recordati meno 3,30, Ferrari meno 3,20 per cento. Parleremo di che cosa oggi? Parleremo da un lato della produzione industriale. Il dato di settembre ha segnato infatti un rallentamento e ahimè è molto probabile che quello di ottobre lo confermi, se non lo peggiori, dopo il forte rimbalzo che c'era stato nella produzione industriale nel mese di agosto. È tornata sostanzialmente a livello di luglio, quindi un po' meglio del livello di luglio, ha parzialmente azzerato il recupero di agosto. Però la cosa importante in questo caso è il confronto anno su anno, per sapere a che punto siamo rispetto al pre-Covid. Siamo ancora sotto di un 5% a settembre del 2020, è un meno 5% rispetto a settembre del 2019. Riduzioni per l'industria tessile, abbigliamento, pelli, accessori. Gli unici settori che vanno bene, a parte insomma attività estrattiva e fornitura di energia elettrica, dicevo, è il settore alimentare in controtendenza, perché ha avuto una crescita. Però, e anche se si va a vedere i vari settori, i beni strumentali sono in flessione più forte, meno 7%, anche i beni di consumo meno 6%. Parleremo di manifatture, di imprese, di produzione industriale nella settimana in cui, come abbiamo ricordato ieri, si sta celebrando la settimana della cultura d'impresa. Siamo giunti alla 19ª edizione, quest'anno chiaramente è completamente virtuale come edizione, e quindi ne parleremo, ma solo dal punto di vista, diciamo, degli incontri. Però è chiaro che parlare di cultura d'impresa in un momento in cui l'attenzione alla sopravvivenza del sistema imprenditoriale è quanto mai delicato, e però anche in un periodo in cui è sembrato, proprio per l'emergenza, le tensioni a cui ci ha portato la pandemia, è sembrato anche esservi delle volte uno scollamento tra il ruolo dell'impresa percepito da pezzi dell'opinione pubblica o del governo, dei partiti, e il ruolo dell'impresa per come viene visto dagli imprenditori. E quindi non parlo di cultura anti-impresa, ma di una cultura in cui delle volte si fatica a comprendere che l'impresa non è solo l'utile e il guadagno dell'imprenditore, è qualcosa che va al di là di questo, è tessuto sociale ed economico, oltre che la principale forma di lavoro, che non può essere chiaramente la sussistenza, ma il lavoro retribuito. Comunque ne parleremo in apertura. Per quello che riguarda poi i temi, a proposito sempre di economia, non solo imprese ma anche manifatturiere, ma anche servizi, torniamo sul tema del recovery plan. Allora, è chiaro che tutta l'attenzione in queste ultime settimane si è giocata sul fronte chiusure, e quindi DL Ristori, poi il DL Ristori bis, di cui abbiamo ampiamente parlato ieri, con le categorie che sono entrate e il raddoppio e il passaggio di categorie che erano a 150% rispetto a quanto preso ad aprile, al 200%, cioè moltiplicare per due quello che era l'aiuto che è arrivato in realtà a maggio-giugno, ma era relativo ai fatturati di aprile. Ci siamo un po' dimenticati del fronte recovery plan, nel senso che era prioritario capire come si andava a ristorare chiaramente parzialmente le attività che venivano chiuse o ridotte moltissimo, però nel frattempo noi continuiamo a tenere gli occhi puntati su quello che vuole fare il governo sul recovery plan. Sono 209 miliardi, l'abbiamo spiegato molte volte, 80 circa sono a fondo perduto e 83 a fondo perduto, e quindi sussidi e prestiti 130. Perché ne parliamo oggi? Perché la Corte dei Conti Europei avverte che lo scorso anno l'Italia era ancora tra i fanalini di coda in Europa per capacità di assorbire i fondi strutturali, quelli classici, diciamo, quelli pre-Covid europei, dal Fondo Sociale a quelli di sviluppo regionale. Siamo riusciti a spendere l'anno scorso, avevamo speso il 31% dei circa 45 miliardi arrivati dall'Europa, che sono scadenzati per il periodo 2014-2020, contro una media del 40%. La Finlandia arriva a spendere il 66%, l'Irlanda il 60%, peggio di noi fa solo la Croazia, che riesce a spendere il 30%. Ora, perché è un grido d'allarme, diciamo così, perché se c'è stato un peggioramento a livello europeo nella capacità di assorbire questi fondi, l'Italia, a maggior ragione, non viene da un'esperienza virtuosa, e allora ci chiederemo che cosa, diciamo, stia bloccando e come si può ovviare a questo problema con i soldi del Recovery Fund, cioè se ci può essere una corsia preferenziale, un commissariamento. Tra l'altro anche la Coldiretti fa notare oggi che perderemo, se non riusciranno a essere utilizzati entro il 31 dicembre 2020, 682 milioni di contributi pubblici dei piani europei di sviluppo rurale, e le risorse pubbliche a rischio di disimpegno sono diffuse lungo tutta la penisola, cita la Coldiretti, la Puglia 250 milioni che rischia di perdere, la Sicilia 140 milioni, la Campania 72 milioni, Basilicata 46 milioni, Lombardia 44 milioni, Abruzzo 36 milioni, Liguria 28 milioni. Ecco, dicendola proprio in maniera piatta, non veniamo da un'esperienza virtuosa negli anni scorsi e non vorremmo che questo si ripetesse col recovery plan. Al di là dei soldi che arriveranno l'anno prossimo, dovrebbe esserci appunto una prima tranche da 20 miliardi. Il problema è ancora non abbiamo notizia di come sarà articolato il piano italiano. Sappiamo che va presentato entro inizio gennaio, abbiamo visto la cornice, ma ci manca ancora il dipinto, perché quello presentato a suo tempo era una cornice. È chiaro che gli obiettivi sono da un lato la digitalizzazione, dall'altro la sostenibilità e quindi tutto il tema del green, della sostenibilità ambientale, dall'altro la coesione sociale, in cui rientrano anche gli investimenti di carattere infrastrutturale. Però poi vorrei capire in maniera molto chiara anche qui quali opere saranno prioritarie, che corsie, chiamiamole così, privilegiate avranno per andare avanti. Ad ora non abbiamo notizie, stanno lavorando da quello che capiamo, però insomma è intanto un mettere in guardia rispetto all'andamento degli anni passati. Chiuderemo appunto, a proposito del recovery plan, con un libro che con molto piacere porteremo in trasmissione, anche perché uno degli autori è a cura di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore e spesso ospite anche a Radio 24. Sono proposte per il paese di domani, e cercheremo di innestare queste proposte con quello che poi deve arrivare dal governo con il recovery plan. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, per quello che riguarda, già i nostri GR24 ve l'hanno ricordato, il dizionario Collins ha stabilito che la parola dell'anno è lockdown, cioè non ci voleva molto, la messa in sicurezza. Però per quello che riguarda il vaccino, domani arriverà l'accordo della Commissione Europea con Pfizer-BioNTech per l'acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer. E in Italia meno il 13,5%, però poi potrebbe essere anche più alta domani. Infatti parte una procedura in cui le varie capitali europee avranno 5 giorni di tempo per presentare eventuali altre richieste, quindi richieste un po' più alte per quello che riguarda i vaccini. 13,5% si rifà semplicemente a quella che è la proporzione di abitanti nei vari paesi dell'Unione Europea, quindi il 13,5 è calcolato su questo. La Commissione Europea ha messo a questo punto formalmente sotto accusa Amazon per l'utilizzo improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti, una pratica con cui creerebbe un vantaggio per le proprie attività di vendita al dettaglio. Quanto alla Commissione Europea, restando sulla Commissione Europea, la Vestager, il commissario europeo alla concorrenza, ha detto che arriverà a breve una decisione su Alitalia e sul tema se siano o no aiuti di Stato quelli concessi ad Alitalia. Il mondo delle compagnie aeree, nel frattempo, oggi ha parlato la IATA, che è l'Associazione Mondiale delle Compagnie Aeree, ha detto che serve un intervento urgente, il settore è a rischio catastrofe nel lavoro, ci sono 4.800.000 posti di lavoro a rischio a causa di un calo della domanda di viaggi aerei di oltre il 75%, e questo era il dato di agosto su agosto 2019. Anche qui non ci vuole un genio per immaginare che, visti i lockdown poi parziali o totali di Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Italia, il traffico aereo si è ulteriormente calato o crollato, anche perché in molti dei paesi che ho citato, se arrivi da un altro paese devi fare la quarantena, quindi questo è chiaramente un dissuasore verso qualunque viaggio se non veramente necessario e non rimandabile. Parlo anche di quelli per lavoro, chiaramente, non parlo solo di quelli già sostanzialmente bloccati per turismo. E infatti che ci sia un peggioramento complessivo del clima economico europeo lo si registra oggi da due dati. Il primo è il forte aumento della disoccupazione in Francia nel terzo trimestre dell'anno, e quindi il dato si è attestato al 9%, ha fatto quasi 2 punti percentuali in più, portando i disoccupati in Francia a 2.700.000, sono 630.000 in più negli ultimi 3 mesi, non c'è il blocco dei licenziamenti in Francia. Mentre per quello che riguarda la Germania c'è un netto ribasso della fiducia degli investitori, l'indice ZEV cosiddetto è crollato a 39 punti contro i 56 punti del mese di ottobre, questo segnala un cambio del clima anche in Germania. Adesso leggo un'agenzia appena battuta. La Lanza, secondo quanto apprende, ci sono altre 4 regioni che dovrebbero... l'Istituto Superiore di Sanità, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipate le misure più restrittive per 4 regioni, oltre a quelle che abbiamo già visto oggi sui giornali, e sono Emilia-Romagna, Campania, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Da quello che capisco le regioni sono entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione. Da quello che capisco dovrebbe entrare in zona arancione. Adesso mi sfugge la mappa completa, ma se entrano anche Campania, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, non so chi resta fuori. A questo punto dovrei andare a controllare chi resta fuori ed è ancora giallo. Facciamo una rapida verifica con la mappa se appunto dovesse esservi un'anticipazione di misure restrittive anche per Emilia-Romagna, Campania, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Venendo all'Italia, i prestiti delle famiglie crescono nel mese di settembre, lo dice la Banca d'Italia, più 2%, e quindi... qualcuno mi sta chiedendo le zone arancioni, adesso non posso spiegare, le zone arancione rispetto alla zona rossa Intanto i ristoranti e i bar sono chiusi come la zona rossa, tranne che per asporto, però i negozi restano aperti e la didattica a distanza è prevista solo alle superiori. È permessa la circolazione all'interno del comune, ma non lo è quella fuori dal comune, ed è vietato entrare e uscire dalla regione. Non è una differenza da pochissimo, perché invece nella zona rossa, dove è per esempio la Lombardia, non è neanche permessa la circolazione dentro il comune. L'uscita di casa va motivata, appunto con il famoso l'autodichiarazione, e sono chiusi non solo i bar e i ristoranti, ma anche la maggior parte dei negozi, tranne che alcune eccezioni. Quindi insomma non è poca. Allora, la Sardegna, mi scrive il Lazio, avete ragione, Sardegna e Lazio. Adesso volevo capire quali regioni sono fuori, per carità, con il massimo rispetto della Sardegna e del Lazio. Ma non è una differenza da poco tra zona arancione e zona rossa, sia perché appunto le scuole restano aperte fino alle medie inferiori, e poi perché puoi muoverti nel tuo comune, i negozi sono aperti senza l'autocertificazione. Quando invece finisci in zona rossa non puoi fare neanche quello. Comunque, allora, il DL Ristori è in vigore, sono aiuti per 2 miliardi e 800 milioni di euro in più rispetto a quelli già previsti, 2 miliardi e 4 del primo DL Ristori, quindi il DL Ristori bis. L'ufficio parlamentare di bilancio segnala come la maggior parte dei settori, 38 settori su 53, riceverà un contributo pari al doppio di quello attribuito con il decreto di maggio. Si tratta della maggior parte dei settori direttamente interessati dalle nuove restrizioni. Ma abbiamo spiegato molte volte che là dove c'è un giro di vite, per esempio i bar che erano al 150 vanno al 200%. Ancora, la Coldiretti stima in 234.000 i bar, ristoranti, le pizzerie, gli agriturismo chiusi nelle nuove regioni arancioni e rosse, quindi sommando le rosse con le nuove arancioni, per una perdita di fatturato mensile di almeno 4 miliardi e 600 milioni. La FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, stima un crollo del settore, una perdita del settore di 26 miliardi di euro, come conseguenza del crollo dei consumi interni, della mancanza di turismo domestico e internazionale, dello smart working e di tutte le misure di contenimento. Rischiano la chiusura definitiva 50.000 imprese e 300.000 lavoratori la fuoriuscita. Anche il mondo delle mense è preoccupato. La ristorazione collettiva, che pure rientra nel DL Ristori, ha detto senza aiuti verranno licenziati 60.000 addetti, e per quello che riguarda invece la scuola, oggi segnalo l'intervento del viceministro dell'istruzione Anna Scani a 24 mattino con Simone Spezia qui a Radio 24, che ha detto: guardate che noi evitiamo i conflitti sulla pelle delle persone, altro che atteggiamento piratesco. Se il governo ha una linea politica sulla questione della scuola, dovrebbe forse forzare la mano su questo fronte. Non è un atteggiamento un po' pilatesco? Guardi, vero il contrario. Noi la mano l'abbiamo già forzata nel fare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri molto chiaro su questo punto. Noi abbiamo un rapporto costante con 20 regioni e 18 di queste regioni sono assolutamente allineate. Ci sono due regioni nelle quali i presidenti ritengono che queste decisioni non siano sufficientemente strette per contenere la pandemia, e siccome è questa la ragione per cui intervengono, noi non possiamo metterci a inasprire un conflitto sulla pelle delle persone che poi giorno dopo giorno hanno a che fare col Covid, perché altrimenti questo genera soltanto confusione ed è il contrario dell'atteggiamento pilatesco, assolutamente il contrario. Dunque, nel frattempo il Ministero dell'Istruzione si è costituito contro contro l'ordinanza della Regione Puglia, al TAR chiaramente, che ha disposto la didattica a distanza anche nelle scuole elementari e medie. Io veramente non capisco, da questo punto di vista, Emiliano, non lo capisco proprio, perché insomma, tanto la cosa, abbiamo già capito tutti che la cosa più facile in questo paese, quando non hai fatto niente anche come Presidente di Regione, è chiudere le scuole. E la Basilicata valuta la didattica a distanza anche per le medie e le elementari, anche se in zona arancione, e quindi potrebbe fare, secondo l'indicazione del governo, didattica a distanza solo sulle scuole superiori. Le regioni che restano in zona gialla, visto che l'Istituto Superiore per la Sanità ritiene opportuno che vengano anticipate le misure più restrittive anche per Emilia Romagna, Campania, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, resterebbero a questo punto in zona gialla il Molise, le Marche, Lazio e Sardegna. Beati loro, io mi auguro che restino il più possibile in zona gialla, c'è una differenza enorme, ma non ci vuole anche qui una grande interpretazione per rendersene conto. Lo dico per esperienza, prima ci lamentavamo quando eravamo tutti gialli della chiusura dei bar e dei ristoranti alle 18, ecco, venite qua a vedere cosa vuol dire quando proprio non aprono, cioè faresti veramente gli inchini per un ristorante a pranzo o così, un caffè e una brioche bevuti e mangiati tranquillamente, quindi non c'è mai fine al colore, mettiamola così. Andiamo adesso sul meteo e la pubblicità, non domani, domani chiudono, allora, l'agenzia che ho letto è un'ANSA ed è un'anticipazione dell'ANSA di quanto ha chiesto, ha ritenuto opportuno l'Istituto Superiore di Sanità. Per ora domani diventano arancioni le regioni che è già previsto che diventino arancioni, quindi non cambia nulla, però insomma, mi sembra che così, il tempo s'accorci anche per le regioni che ho indicate, anche il Trentino è vero, senza l'Alto Adige è giallo, ci mancherebbe, l'Alto Adige invece è tutto rosso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Focus Economia. Sette minuti, dunque mi scrivono alcuni ascoltatori, ne cito uno, dice: guardi, io sono in Toscana, da domani sono in zona arancione, faccio panini davanti a una struttura ospedaliera, spero che ci mettano in zona rossa perché tanto non sto incassando niente e non ho diritto ad alcun ristoro. No, guardi che non è così, perché i ristori sono arrivati già quando c'erano in zona gialla, i bar erano al 150% di quanto ottenuto ad aprile. Ma i bar, la ristorazione ambulante è passata al 200%, ho qua sotto mano il codice Ateco, insomma, e se lei fa ristorazione ambulante o comunque mi sembra che faccia e sicuramente anche nelle zone arancioni lei è al 200%, non serve che arrivi nella zona rossa, cioè, c'erano i ristori già prima anche quando era giallo. Perché c'erano limiti alla somministrazione chiaramente fino alle 18. Se vai in zona arancione e quindi non apre proprio, cioè può solo fare asporto, finisce come tutti, finisce al 200%, come se fosse già in zona rossa, glielo dico perché può già. Tra l'altro qualcuno mi scrive che ha già ricevuto i soldi, qualcuno che ha ricevuto i soldi ci scriva, perché vorrei capire se stanno arrivando i primi fondi calcolati, perché l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere molto veloce, visto che li ha già fatti, almeno per tutti quelli che sono già, diciamo così, nel database, perché li hanno ottenuti ad aprile, dovrebbe essere molto veloce l'operazione, già era stata veloce ad aprile. Se qualcuno vuole scrivere o anche scrivermi fra qualche giorno, che non ha ottenuto nulla neanche del DL Ristori iniziale, leggeremo i messaggi. Allora, la produzione industriale, oggi dicevo siamo tornati ai livelli di un po' sopra luglio, meno 5% rispetto al settembre del 2019, su questo il nostro Marco Mancini ha sentito Giancarlo Bruno, responsabile del servizio statistiche congiunturali sulle imprese di Istat. Tra l'altro segnalo che le riduzioni tendenziali, cioè anno su anno forti, sono ancora sul settore tessile, abbigliamento, pelli, accessori meno 21 e anche petrolifero meno 20,4%. La produzione industriale fino ad agosto aveva registrato 4 mesi di crescita, a settembre c'è stato un calo. Questo calo porta comunque l'indice a posizionarsi su un livello superiore a quello di luglio, quindi in pratica l'aumento di agosto è stato annullato solo parzialmente dalla flessione di settembre. La media del terzo trimestre è comunque ampiamente positiva e questo certamente anche dovuto al fatto che si confronta con il secondo, dove era un trimestre che era stato caratterizzato appunto da chiusure estese di attività. Dal punto di vista tendenziale ricordo solo che mentre ad agosto eravamo quasi arrivati a livelli tipici dei mesi di agosto anche degli anni precedenti, a settembre c'è stato comunque un ripiegamento. Il confronto con il settembre dello scorso anno è negativo per 5,1 punti percentuali. Ma a suo avviso come si spiega questa frenata? Beh, questa frenata è stata diciamo dovuta un pochino a tutti i settori, cioè nel senso che tutti i settori a settembre rispetto ad agosto hanno mostrato quasi tutti insomma delle diminuzioni che sono state più forti proprio nei settori che invece ad agosto avevano visto degli aumenti maggiori, quindi tessile, l'abbigliamento in particolare. I settori che vanno peggio, tra virgolette, mi riferisco qui al confronto tendenziale, quindi con lo stesso periodo dell'anno precedente, sono quelle del tessile, dell'abbigliamento e le industrie della raffinazione. In entrambi i casi vediamo che le diminuzioni tendenziali sono superiori al 20%. Anche macchinari e le attrezzature vedono un calo di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi in termini tendenziali, seppur in maniera eterogenea, il calo è abbastanza diffuso. Peraltro abbiamo dei settori come l'elettronica o gli articoli in gomma e materie plastiche, eccetera, che invece sono stazionari o con un calo molto molto leggero. Ho scatenato, mi stanno scrivendo decine adesso, chiaramente non ha nessun valore statistico, decine di ristoratori. 8.000 euro in un ristorante, 10.000 euro in un altro, due volte quello che avevo ricevuto aprire, una boccata d'ossigeno, anche una pasticceria di Cremona, cioè ne ricevo una al secondo, di ascoltatori che stanno segnalando che hanno ricevuto già nel conto corrente il ristoro da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcuni dicono pochi ma arrivati, la velocità a me non va bene, la quantità no. Altri dicono non abbiamo ricevuto nemmeno quello di aprile. Lì dovete, c'è tutta un'altra procedura in quel caso. Anche mi scrivono altri ascoltatori. Poi uno mi ha scritto, ma è sulla base del dichiarato i ristori. E beh, amore, cosa facciamo il ristoro sulla base del nero? Cioè, almeno lì si crea un po' di giustizia fiscale tra chi ha dichiarato tutto o quasi tutto e chi invece nell'anno scorso aveva un pezzo di nero, perché quello non lo puoi portare a paragone, e già non lo potevi portare per quello che riguardava aprile, il fatturato di aprile, a paragone il governo sul fatturato di aprile stabilì fino a 400.000 euro di fatturato il 20% della differenza persa rispetto al fatturato di aprile 2019, a patto che tu avessi perso più del 33%. Abbiamo fatto 1000 esempi su questo, se volete ve li rifaccio anche dopo. Insomma, un bar che ad aprile ha dichiarato una perdita di 10.000 euro ha ricevuto 2.000 euro ad aprile, se il suo fatturato annuo è sotto i 400.000 euro ha ricevuto invece 1.500, se era tra i 400.000 e 1 milione e ha ricevuto solo 1.000 euro, ma dubito che il fatto del bar potesse andare da 1 milione a 5 milioni di euro. Comunque, immaginiamo il bar classico sotto i 400.000 euro di fatturato, ha ricevuto 2.000 euro ad aprile. Adesso gli verranno dati 4.000 euro se in zona rossa o arancione, o invece il 150%, 3.000 euro se in zona gialla, a valere sul mese di ottobre. Quindi insomma, però vedo che molti mi stanno scrivendo. Gli ambulanti che mettevano scontrino, che non ne mettevano scontrino, avranno grossi problemi. Ho capito, ragazzi. Cioè, dobbiamo fare. Andiamo a stimare anche il ristoro sul nero. Antonio Calabrò, buonasera. Non voglio buonasera, parlare parlare con lei di nero e di presidente di Musei Impresa. Parlo con lei invece, Calabrò, perché ho difficoltà a darti del lei, perché sei stato vice direttore che sei stato vice direttore al Sole 24 Ore, ci conosciamo da anni. Senti Antonio, tu sei presidente di Musei Impresa E questa è la settimana della cultura di impresa, 19esima edizione, quest'anno completamente virtuale. La prima domanda, poi la seconda te la faccio dopo il traffico, è molto semplice. Come si fa a parlare di cultura di impresa quando in questo momento il clima è più da sopravvivenza dell'impresa? Beh, la cultura di impresa, che cos'è la cultura di impresa? Creatività, innovazione, produttività, tenere aperti gli impianti, farli crescere. La cultura d'impresa è il meccanismo della competitività e dello sviluppo. Non è finanziare la mostra con un quadro o con un'operazione artistica. La cultura d'impresa è scienza e tecnologia. Quindi, proprio in crisi, i valori della cultura d'impresa, che sono i valori dell'impresa, sono fondamentali per pensare oggi come sopravvivere, domani come crescere. E ti faccio una seconda domanda, sempre prima del traffico. In questo periodo è sembrato, la crisi economica chiaramente ha polarizzato, ha creato tensioni, la crisi sanitaria che poi è diventata economica, ha polarizzato e creato tensioni. Tra le varie polarizzazioni e contrapposizioni è sembrata anche emergere una tra una parte del paese che ha ben presente qual è il ruolo dell'impresa. Non parlo solo degli utili del fatturato dell'impresa, ma parlo del ruolo sociale dell'impresa, creare occupazione, creare cultura anche professionale, cultura in generale nel territorio, perché altrimenti andremo tutti quanti a delocalizzare fuori, e una parte del paese in cui è sembrata esserci meno sensibilità per il ruolo dell'impresa, intesa appunto non solo come chi fa fatturato e si spera utile, tant'è che si è anche detto attenzione che c'è una deriva che va verso la sussistenza più che lo sviluppo dell'impresa. Ecco, tu noti ancora una difficoltà nel creare una cultura sul ruolo dell'impresa, mettiamola così. Io credo che questa difficoltà venga da molto lontano e in periodi di crisi sia esasperata. Per provare a definire alcune cose fondamentali. La salute e la sicurezza sono fondamentali per le imprese. Non so pensare un'impresa che produce, cresce, assicura lavoro e investe sull'innovazione se non tenendo in prima linea le persone. La salute e la sicurezza delle persone sono fondamentali. Secondo passaggio, la salute e la sicurezza nei territori consentono alle imprese di crescere, essendo una delle forze delle nostre imprese la sapienza che viene da una lunga frequentazione con le abilità, le capacità, le intelligenze, l'artigianato che diventa industria nei nostri territori. La nostra storia di impresa è, come diceva Carlo Maria Cipolla, all'ombra dei campanili, sui territori. Territori che difendono la salute, che difendono lo sviluppo, sono esattamente quello che stiamo vedendo in questo momento. La contrapposizione o la salute o lo sviluppo è una contrapposizione falsa, demagogica, che porta tutti a sbagliare. E io su questo sono, figurati, d'accordissimo, anche non ho mai visto una contrapposizione tra le due cose. Adesso ho il traffico, poi però ti voglio chiedere un ultimo elemento, perché tu appunto non vieni dal mondo dell'impresa, citavo prima il tuo passato, diciamo, giornalistico, prima a Palermo e poi anche al Sole 24 Ore, conosci appunto molto bene il nostro Mezzogiorno e la Sicilia, e vorrei capire, non per dare una responsabilità, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma se non vi sia stato in questi anni, decenni, una responsabilità anche del mondo dell'impresa nel non far capire che cosa fa l'impresa veramente. Io l'ho visto per esempio 2 anni fa quando il governo giallo-verde come prima cosa smontò i voucher e l'alternanza scuola-lavoro con l'idea stanno schiavizzando gli studenti. Alcuni mi scrivevano vanno lì per fare le fotocopie, ma chiaramente uno studente all'inizio fa le fotocopie quando entra in un luogo di lavoro, cioè impara. Allora, forse in questi anni anche il mondo delle imprese si è dimenticato di raccontarsi. Io ogni tanto faccio la battuta, abbiamo avuto serie TV su qualunque cosa, carabinieri, baristi, commesse, negozianti, così. Non ricordo una fiction televisiva che raccontasse cos'è il lavoro quotidiano del piccolo imprenditore, il rapporto con i suoi dipendenti, il rischio, le incavolature. No, il lavorare tanto sempre, non fermarsi mai, cioè è mancata forse anche una narrazione da parte delle imprese di quello che sono. Vorrei la tua risposta però dopo il traffico. Focus Economia. 17:50 minuti. Dunque, Antonio Calabro, forse non c'è stata anche un'incapacità del mondo delle imprese di raccontare se stessi, di raccontare quello che fa l'impresa, non solo, diciamo, la parte più visibile? Naturalmente sì. Aggravo il quadro che facevi poco fa. Abbiamo avuto fiction su tutte, anche molto interessanti. Protagonista le commesse, la Guardia Costiera e così via di questo passo. In molti programmi televisivi, in molte fiction, non solo non c'era l'imprenditore, ma se c'era, era uno torbido, un po' sì, cattivo, che metteva di zanga, un maneggione, un personaggio sgradevole, un cattivo. Ora, io credo che sarebbe il caso di pensare a delle fiction non che dicano che gli imprenditori e le imprese, gli imprenditori e le imprese sono comunque due concetti diversi. Dentro l'impresa c'è l'imprenditore, ma l'impresa non si riassume tutta nell'imprenditore. Vabbè, certo. Dico, sarebbe il caso di organizzare delle fiction che raccontassero non l'imprenditore buono, illuminato, straordinario, ma l'imprenditore nella sua quotidianità. Faticare, lavorare, pensare, conquistare un mercato, entrare in difficoltà, uscire dalla difficoltà, costruire cioè un meccanismo mobile. L'impresa è come la vita di ognuno di noi, è un percorso di alti e bassi. L'impresa è una storia di persone di fronte a tecnologie e trasformazioni. Ora, è vero, abbiamo a lungo sottovalutato il racconto, occupati come erano le donne e gli uomini d'impresa a fare, ma il fare senza raccontare è parziale. Io credo che una sfida importantissima della cultura d'impresa sia costruire un racconto reale, avvincente, affascinante. Perché un racconto affascinante quando lo facciamo? Quelli di noi che vanno nelle scuole, che partecipano ai dibattiti, che parlano con i ragazzi, sanno che le storie degli imprenditori e delle imprese sono delle storie incredibili, di grande capacità. Ecco, questa è una scommessa da fare, ma c'è una seconda scommessa ed è aprire le nostre fabbriche, le nostre imprese, agli scrittori, ai registi, agli artisti, ai fotografi, ai politici, che vengano a vedere cosa vuol dire lavorare, dove sta la bellezza, ma anche il conflitto, ma anche la durezza del fare contemporaneamente innovazione e inclusione sociale. Perché questo vale la pena dirlo, Sebastiano. Le nostre imprese sono posti in cui, certo, indipendentemente dal colore, dalla razza, dalla provenienza, se sei bravo, cresci. Sì, ma guarda, adesso nel ringraziarti e salutarti, io penso anche, andremo un po' fuori seminato, che anche la letteratura, oltre che il cinema e la fiction televisiva, abbia un ruolo. A me ha sempre sorpreso, venendo dal nord-est, che non vi sia stato, se non pochissime eccezioni, insomma, un romanzo o un film, una serie in grado di raccontare quello che è stato lo sviluppo dagli anni 70 in poi di quella che veniva chiamata la Terza Italia, cioè tutta la dorsale adriatica, nord-est, Veneto, Friuli, Marche, fino agli Abruzzi, cioè questa piccola impresa che ha reso ricche persone che prima abitavano in terre di immigrazione, andavano in Argentina piuttosto che negli Stati Uniti o in Australia, in cui c'era la pellagra anche negli anni 50 e 60, insomma, cioè quello che è stato il salto incredibile, studiato nell'università di mezzo mondo, noi non siamo mai riusciti a raccontarlo sotto una forma narrativa. Cioè, che cosa ha voluto cambiare? Ha voluto dire cambiare proprio una società agricola in una società, diciamo, industriale e poi post-industriale. Comunque, grazie anche a Antonio Calabro in collegamento con noi, perché ogni tanto cerchiamo di respirare e non dare solo la cronaca. Adesso stanno uscendo i dati del bollettino di oggi. Presidente di Musei Imprese. Adesso devo andare sul GR24, poi parleremo dopo invece dei fondi europei e di altri suggerimenti che arrivano proprio dal mondo delle imprese. Do solo la chiusura di borsa, più 0,50% sia Milano che Francoforte, l'1,5% lo guadagna Parigi, l'1,80 Londra e il Dow Jones appunto mezzo punto percentuale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato. ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, da lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Focus Economia. Minuti, vedo ancora molti messaggi sul intanto di molti ascoltatori che mi dicono che sono arrivati i soldi del DL Ristori, una gelateria di Genova, 3.600 euro. Leggo quello che mi scrivete, altri mi dicono: mi scusi, ma io sto tenendo non ha senso tenere aperta la pizzeria che consegno pochissime pizze. Guardi che però in asporto i ristoranti, le pizzerie, anche quando lavorano solo in asporto, ottengono il 200%, perché sono entrate appunto nella categoria e lo tengono sia in zona gialla che in zona arancione rossa, questo non cambia. Tutta la ristorazione con somministrazione al 200%. Alcuni, ripeto ancora, per esempio i bar, sono andati al 200% nelle zone arancioni rosse perché non possono proprio aprire, non è che aprono solo fino alle 18. Qualcuno mi scrive: guardi che il barista davanti a me chiude, prende il doppio di aprile. Io ho un negozio di abbigliamento, non arriva un cliente, non prendo niente. Sì, allora zona gialla, perché mi scrive da Firenze Anna. Questo è chiaro, che le attività aperte nelle zone gialle e anche nelle zone arancioni, in questo c'è una differenza, perché nelle zone arancioni tu puoi circolare nel tuo comune e i negozi sono aperti, mentre nelle zone rosse sono aperte solo pochi negozi, abbigliamento per bambini, intimo e quant'altro, ma non l'abbigliamento. È chiaro che questo si può verificare, cioè che il barista o il ristorante abbia comunque i ristori e lei no, i ristori lei no, perché lei è considerata aperta e quindi non ha avuto limitazioni. Allora, le pizzerie con somministrazione prendono i soldi, le pizzerie con solo asporto non prendono niente. No, a me non sembrava così. Adesso devo andare a rivedermi tutte le categorie, però mi sembrava che tutte le attività perché poi solo asporto non capisco cosa vuol dire. Qualunque pizzeria al taglio, se ho ben capito, ha anche la possibilità di consumare lì il cibo, quindi è comunque una somministrazione. Vada a vedersi bene i codici. Le segnalo che appunto Sole 24 Ore ha pubblicato tutti i codici, quelli precedenti e quelli nuovi. Ma restiamo in tema di come utilizzare i fondi del Recovery Fund. Lo spostiamo domani perché è molto articolato, alla luce anche di quello che ci ricorda l'Europa, cioè ci dice che noi siamo tra la Corte dei Conti Europea dice che l'Italia è fanalino di coda con la Croazia nella capacità di utilizzare i fondi, quelli pre-Covid, quelli diciamo del settennato 2014-2020. Invece vorrei andare se possibile, portare anche delle idee su delle proposte per l'Italia, non legandole necessariamente al recovery, ma legandole al fatto che Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Alberto. Buonasera a tutti. Ha appena pubblicato un libro per Einaudi, Stile Libero, che si chiama Proposta per l'Italia. Ha intervistato 7 protagonisti dell'economia, chiedendogli una visione e anche delle proposte per il paese di domani. È ovvio che sullo sfondo resta questa opportunità di fronte a una pandemia rappresentata dal Recovery Fund, e quindi 82 miliardi di sussidi e fino a 127 di prestiti. Che cosa emerge dalle proposte per l'Italia, al di là del fatto che ognuno di loro abbia ovviamente delle proposte specifiche e diverse dalle altre? Ma insomma, è chiaro che c'è una visione del paese, del futuro, della necessità di imparare a spendere, a investire, che è il grande male dell'Italia, ed è tutto letto alla luce del fatto che verremo inondati come mai prima appunto di una massa enorme di denari, che sono quelli del New Generation EU o Recovery Fund, che dir si voglia, che l'Europa ha messo a nostra disposizione per uscire dai guai della pandemia. Sono 7 protagonisti dell'economia: Silvia Candiani, Microsoft, Andrea Illi di Illi, Emma Marcegaglia del gruppo Marcegaglia, naturalmente Federico Marchetti di Yux, Carlo Messina, che è il primo banchiere italiano di Intesa San Paolo, Renzo Rosso di Diesel e Marco Tronchetti Provera naturalmente da Pirelli. Ognuno ha una sua visione, naturalmente ha una sua caratterizzazione specifica, però le grandi direttrici su cui orientare gli investimenti sono quelle di cui si parla, con un'aggiunta però, che in questo caso loro la declinano con la vita vera di chi sta sui mercati, di chi conosce il mondo, di chi sa quali sono le potenzialità e i problemi, per esempio della spesa in innovazione nel digitale, a cominciare da quello che dice Candiani, il vero rischio è di fare poi un'autostrada senza poter metterci le automobili perché non hai la gente che la patente, ci sono 150.000 profili professionali legati al mondo del digitale che già adesso vengono disattesi perché le aziende non sono già in grado di trovarli adesso, figuriamoci cosa ci succederà con la rivoluzione del 5G se non saremo in grado di prevedere quali diventeranno i flussi poi di domande e offerte di lavoro. Egli ha una visione illuminata, innovativa del capitalismo, per esempio pensa che sia in grande momento di arrivare a creare una specie di forma intelligente di egoismo, che sarebbe poi l'altruismo, una declinazione diversa del fare squadra, del sentirsi tutti insieme un paese che deve essere impegnato in una frontiera molto importante, che deve guardare alla sostenibilità. Sostenibilità che naturalmente non è solo una parola chiave di questo momento, che va di moda, che serve magari a fare un po' di window dressing sui bilanci per far diventare i verdi società che non lo sono, ma è un tema strategico che deve fare i conti anche con dei nodi importanti, per esempio, come dice Marcegaglia, non potremo pensare di fare a meno del gas. E per esempio sostenibilità potrebbe anche voler dire che scopriremo in un futuro neanche troppo lontano che ci sarà di nuovo più che competitivo una forma di micronucleare sicuro che potrà rimettere in gioco per esempio le scelte prioritarie sull'energia, che naturalmente saranno una grande parte anche nella svolta dell'auto elettrica, che come dice Tronchetti è vissuta come una svolta ma con poca attenzione all'idea di dove smaltiremo le batterie e quali saranno le fonti energetiche per alimentarle quelle batterie, perché è chiaro che se il mondo cambia paradigma e diventa tutto fatto di automobili elettriche ci sarà bisogno di una quantità di energia enorme per alimentare poi le batterie, con il rischio che poi devi rifare i conti naturalmente sull'abbattimento del CO2 complessivo. Sono tutte questioni per l'appunto complesse di cui si parla molto spesso e sono però appunto declinate nelle risposte che i vari protagonisti hanno dato nelle nostre lunghe chiacchierate che abbiamo fatto tra giugno e luglio, e tutte però condite per appunto un grande realismo e soprattutto con uno spirito anche molto positivo che è proprio di chi fa impresa sostanzialmente, chi sta nel mondo dell'economia. Allora, a proposito delle persone che tu hai intervistato, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Federico Marchetti, che è un imprenditore italiano e fondatore di e CEO di Hughes Net-a-Porter Group. Buonasera Marchetti. Buonasera a tutti, buonasera Sebastiano. Allora, non devo ricordare io, comunque lei ha fondato Hughes nel 2000 e poi l'ha quotato a Milano nel 2009, poi la fusione nel 2015 con la nascita del gruppo italo-inglese Hughes Net-a-Porter per l'e-commerce di lusso, di cui appunto è presidente e amministratore delegato, e poi il gruppo è stato acquisito da Richemont, uno dei più grandi soggetti mondiali nel settore, con sede in Svizzera. Ora, tra l'altro, se ben ricordo, c'è oltre un miliardo di fatturato creato dagli smartphone. Vorrei capire, in primis, poi veniamo all'e-commerce, al commercio e al lusso, visto che parlavamo delle priorità sul prossimo Recovery Fund, quindi vorrei andare anche sulla cronaca. Lei, immagino, da imprenditore ma anche da cittadino, si sarà fatto un'idea alla luce dei tre pilastri, quindi economia sostenibile, economia digitale e economia inclusiva, per il Next Generation EU, quali dovrebbero essere le priorità per il nostro paese? Sicuramente sì, e da imprenditore a volte, non sono né un banchiere né un manager, però da imprenditore a volte parto anche dalle cose semplici e più pragmatiche. Ad esempio per quello che riguarda la digitalizzazione, io non entro nel parlare della pubblica amministrazione, della burocrazia, perché non è necessariamente il mio campo, però ad esempio una delle cose che ho proposto quando sono stato chiamato dalla famosa task force di Colao e che comunque ho ripetuto in lungo e in largo tutte le volte che ho potuto è ad esempio quello sulla formazione digitale, di dotare tutti i bambini e tutte le bambine italiane e italiane di un computer, perché comunque la cosa principale è sì la connessione, è sì la banda larga, è sì la formazione degli insegnanti, è sì i contenuti digitali, ma se questi poveri bambini e bambine non hanno un computer, e purtroppo in Italia un quarto dei bambini italiani non hanno un computer, purtroppo non possono saltare un anno o addirittura di più di formazione, perché la formazione è la base del futuro. Quindi ad esempio un computer per ogni bambino è tra l'altro una spesa assolutamente sostenibile, perché ormai i computer costano molto di meno rispetto a 20 anni fa, e questa sarebbe una cosa semplicissima che però diciamo finora è rimasta abbastanza importante. Sì, tra l'altro adesso lo dico senza far troppa polemica, però tra il bonus monopattino e il bonus bici, che per carità la bici, vabbè, il monopattino io lo reggo già molto meno, ma è un bonus computer per i ragazzi, dimostrando appunto trovando un modo che venga vincolato appunto all'acquisto per tuo figlio, io non avrei avuto nessun dubbio, perché a maggior ragione se poi siamo dovuti andare in gran parte in didattica a distanza. Qui ci sono ragazzi che fanno lezioni in alcune case con i telefonini, ma ci rendiamo conto, cioè con lo smartphone, come si fa a seguire una lezione con uno smartphone? Allora uno può dire colpa delle famiglie che hanno speso i soldi in altro, per carità, però prendi le fasce di reddito e vai a intervenire sulle fasce di reddito, capito, con l'ISE, con quello che vuoi, come hanno fatto col bonus bici, col bonus monopattino. Insomma, mi sembra prioritario quando hai la didattica a distanza fosse il computer. Resti con noi Marchetti, anche Orioli, ho il traffico e poi vorrei capire invece proprio sul tema dell'e-commerce, quanto resterà nei Marchetti dopo la pandemia? Cioè, noi immaginiamo un recupero abbastanza forte dell'economia, quasi a V, perché il problema non è stato di carattere economico, come continuo a ripetere, ma di carattere sanitario. Non si è inceppato il motore economico perché, come nel 2008, 2009 o nel 2029, funzionava male. Però sappiamo anche che, per quanto una ripartenza molto forte possa arrivare, alcune cose potrebbero diventare strutturali, e vorrei capire quanto lei ritiene che l'e-commerce nelle varie manifestazioni possa diventare strutturale come abitudine, diciamo, di consumo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora mi correggo subito, perché è vero, era sfuggito tra le misure che esiste il bonus per i computer per chi ha un ISE sotto i 20.000 euro, chiedo venia, ogni tanto sfuggono anche a me le misure del governo, ma non ho problemi a rettificare e ad ammettere che ero io quello che lo diceva, non era un altro. Allora Marchetti, cosa resterà, diciamo, di strutturale in tutte queste in tutti questi atteggiamenti emergenziali, a partire, diciamo, da un ricorso al commercio online molto spinto? Non è come chiedere all'oste se il vino è buono, perché immagino che lei riesca anche a uscire dal suo ruolo, diciamo, professionale, ma qui glielo chiedo più come cittadino. Allora, ma molto rapidamente, tornando sul computer per ogni bambino, un conto è un bonus, un conto è dare un computer a tutti i bambini che non ce l'hanno, quindi diciamo che non è che ha sbagliato tantissimo lei a dire quello che ha detto. Comunque, tornando invece all'ultima domanda, io nel 99 mi sono inventato UX, che ovviamente in quel momento tutto quello che era moda e tutto quello che era digitale erano due mondi che erano completamente uno dalla parte opposta dell'altro. Adesso quello che è successo con questa pandemia, che era qualcosa che era già in accelerazione, è scattato un po' l'ora X del digitale per la moda, quindi quasi da dire che dopo la pandemia, o già da adesso, non esiste moda senza digitale. È un'accelerazione strutturale. Una volta che i clienti provano dei buoni servizi, dei buoni contenuti, dei buoni prodotti, sicuramente è molto difficile, sarà molto difficile che tornino indietro. Questo non vuol dire che i negozi spariranno, perché io questo qui non l'ho mai creduto. Non l'ho creduto nel 2000, quando dicevano che l'e-commerce sarebbe sparito per via dello scoppio della bolla, e altrettanto adesso non penso che i negozi spariranno. Ma ci sarà sempre di più un'integrazione tra quello che è il digitale e quello che è il fisico. E l'importante è partire sempre dal cliente. Cioè, alla fine della fiera, la cosa più importante, l'e-commerce che cosa ha fatto? Ha mostrato a tutti che il cliente e i clienti sono al centro di tutto e quindi le aziende dovranno un po' reinventarsi, anzi a volte anche drasticamente reinventarsi, per mettere il cliente al centro. Io nel 99 mi sono immaginato Yux come il mio negozio, il negozio dei miei sogni da cliente, sono un po' il cliente zero di Yux. E negli ultimi 20 anni non ho fatto altro che inventare innovazione dietro innovazione, pensando sempre da cliente più che da amministratore delegato. Devo dire Marchetti che sono così d'accordo con lei, adesso, però qui stiamo presentando un libro di Orioli, che è uno degli elementi centrali nel libro che sto per pubblicare, l'idea che la rete e quindi anche l'e-commerce porti a un ribaltamento nei rapporti di forza, più forza il cliente dell'offerente, nel senso che adesso andremo troppo in là, ho per la prima volta la possibilità di scegliere tutte le offerte indipendentemente dal luogo in cui risiedo grazie alla rete, ed è chiaro che dovrei porre il cliente veramente al centro e quindi sviluppare anche un valore aggiunto nel negozio di prossimità, nel negozio fisico, perché se no a quel punto è ovvio che se non c'è distinzione con quello che compri online, uno tenderà a restare online. Ma sono d'accordissimo che la rete abbia di positivo per noi quando siamo clienti, che ti dà una forza molto superiore a prima rispetto al tradizionale incrocio domanda offerta con il commercio classico, diciamo. Perché? Perché sei dalla parte buona del computer, come dico io, e non sei dentro il computer. Alberto Orioli, qual è il timore più grosso che è emerso dalle interviste che hai fatto, nelle proposte per l'Italia? Guarda, c'è un tratto comune che mi ha molto colpito, sono due i tratti comuni che mi hanno molto colpito, che prescindevano poi da quello che io domandavo. C'è una grande paura che la scuola sia insufficiente, il problema è di perdere una generazione massacrata da quanto è accaduto alla scuola a causa della pandemia, che ha semplicemente accentuato diciamo così, delle insufficienze, delle carenze che già esistevano prima, evidentemente, perché, come dicevo, c'è un problema di creare un maggiore contatto fra mondo del lavoro e mondo dell'istruzione e della formazione già da tempo, che il Covid ha molto accentuato. L'altra cosa è la grande paura della burocrazia, la burocrazia che è diventata un grande contropotere all'interno dell'ordinamento della nostra comunità, che si autotutela, si autoperpetua ed è diventata una cosa che è anche più forte della politica, che ha messo avanti il principio della legalità rispetto al principio della libertà, e questa cosa spesso crea dei cortocircuiti, soprattutto per chi fa impresa e per chi ha a cuore invece la velocità delle scelte, delle allocazioni degli investimenti del nostro paese. Questa è una cosa comune a tutti, che è venuta fuori con molta forza, molta chiarezza, ed è il grande nemico da battere, ma che è un nemico pervasivo, difficile da sconfiggere, perché sta ovunque e cambia continuamente assetto e come dire, codice genetico, quasi un po' come fosse un virus, diciamo la verità. Marchetti, per concludere, che devo chiudere anche qui a cavallo tra l'imprenditore e il cittadino, ma lei, insomma, quando parla con i suoi figli, con gli amici dei suoi figli, con i figli dei suoi amici, insomma, con le generazioni più giovani, Che prospettive dà sul futuro? Cioè, lasciamo stare adesso l'aspetto pandemico e sanitario, ma lei è convinto poi alla fine che questa possa essere anche un'opportunità, o teme moltissimo che poi, insomma, tutto passi in cavalleria una volta finita l'emergenza sanitaria? Ho una figlia di 9 anni che sta andando a scuola, e a volte sono più io che imparo da lei piuttosto che lei impari da me. E secondo me non penso che ci sarà un ritorno a quello che si può chiamare normalità, nel senso che quest'estate abbiamo visto che in tanti, a destra manca, cittadini, governi e così via, si sono dimenticati e non vedevano l'ora di tornare a come erano prima, non so come dire. Sì. E quindi hanno detto, ma quasi quasi non è successo niente, torniamo esattamente come era prima, andiamo in discoteca, facciamo quello, facciamo quell'altro, eccetera eccetera. Io penso che questo qui non succederà, io penso che ci sarà una nuova normalità, poi questa nuova normalità su alcune cose potrebbe essere anche meglio, quindi penso che, come in tutti i grossi cambiamenti, ci saranno anche delle opportunità da cogliere. Che ne so, lo smart working, se strutturato bene, può essere un grande vantaggio per le mamme che possono così lavorare da casa, ma anche per gli uomini che hanno vari interessi, insomma, diciamo che ci sono anche per i papà, diciamo anche per appunto papà. Sì, infatti, e quindi ci sono tanti aspetti che magari hanno fatto, è stata un po' una sveglia, no? Quindi anche il settore della moda forse si era un po' surriscaldato, cioè c'è stato, anziché il global warming forse è stato un fashion warming tale per cui era troppo tutto accelerato. Quindi l'ambiente, non dimentichiamoci dell'ambiente, perché comunque questo Covid ha un po' fatto in modo che si ritorni ad amare gli uccellini, gli animali, il lago di Como. E sì, ecco, basta non essere lì a guardarli da disoccupato, sennò l'uccellino te lo mangi o gli spari, nel senso che è importante poi tornare anche, io sono d'accordo con lei che alcune elementi resteranno in maniera strutturale, questo al netto di un recupero dell'attività produttiva e dell'occupazione che deve avvenire. Però io ringrazio ambedue, bocca al lupo sia Federico Marchetti, Alberto Orioli, glielo auguro in bocca al lupo perché è un collega qui da Sole 24 Ore di cui è vice direttore. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani approfondisco, prometto, il tema dei computer, che mi stanno arrivando decine di messaggi, parleremo esattamente di quello che prevede il bonus computer. A domani.